Benissimo, allora direi che possiamo iniziare la nostra serata. Come sapete, la Biblioteca Provinciale da quando è nata cerca di organizzare degli incontri, dei momenti di socialità, di scambi culturali, di ampliamento dei propri orizzonti, ecco, chiamiamoli così, e soprattutto di incontri diretti con autori e autrici come quello di questa sera, per cui ringrazio i nostri ospiti, le nostre gentili ospite e gli artisti che sono qui con noi. Allora, l'occasione è appunto la presentazione del libro Sono io che vi chiamo, e con noi è qui presente l'autore Giampiero Montanti. Poi abbiamo le letture che verranno affidate appunto a un'altra nostra ospite che conosciamo anche già da altre iniziative, Jael Behr, che ringrazio. Abbiamo poi anche Liviana Berardini che ci aiuterà, ma soprattutto poi abbiamo anche un accompagnamento musicale a cura del tenore Roberto Catania, che è qui con noi, buonasera, e al pianoforte la musicista, artista, ecco, Elisabetta Fusillo, che ringrazio. Ringrazio anche la Consulta di Appiano, no? Perché è un evento che è nato, concepito e costruito grazie al loro suggerimento, alla loro proposta, che poi nel tempo si è arricchito, e questa sera siamo contenti di poterlo ospitare anche nella cornice della Sala 1 con questa bellissima mostra che è in corso e che durerà ancora del tempo, per cui vi invitiamo anche a tornare a visitarla con più calma. Ma vi invitiamo anche a tornare ad alcune nostre iniziative, perché la biblioteca è attiva ogni giorno, propone qualcosa per invitare le persone a tornare in presenza tra gli scaffali e a tornare anche a scambiarsi delle opinioni e ad approfondire dei percorsi di conoscenza. Sarà la volta, infatti, martedì prossimo, di una podcaster che abbiamo incontrato anche l'anno scorso. Si chiama Francesca Ferragina, viene da Merano e questa volta terrà una conferenza dal titolo Le donne ci sono ma non si vedono. Ecco, quindi la prossima settimana, 12 marzo, la sera alle 17:30 in questa sala con Francesca Ferragina. Mercoledì 13 marzo un'altra donna sarà con noi. Il mese di marzo lo dedichiamo volentieri, ecco, alle nostre autrici, e quindi sarà con noi Ariella Sponza, presenterà il libro Mandala dell'Himalaya, un viaggio nella cultura, nel mito, nella spiritualità dell'India. L'appuntamento è appunto il 13 marzo con Mariella Sponza in questa sala, sempre alle 17:30. E infine ringrazio della vostra pazienza, ma io ne approfitto sempre per fare un po' di spot. Allora, il giorno 19 marzo alle 17:30 avremo invece un'altra autrice, Eleonora Goio, una bolzanina di origine che si è trasferita nelle Marche. È una grande viaggiatrice, ha superato tantissime barriere, è una persona molto coraggiosa che vi invito a conoscere se già non la conoscete. Ha scritto tanti libri. E questa volta ci presenta Infinitamente acqua, una visione romantica del navigare. Sarà con Eleonora Goio anche Bruno Franceschini che ci aiuterà nella presentazione del libro. Ma torniamo alla nostra serata. Io vi ringrazio di essere così numerosi. Vi ricordo che questa serata viene registrata, quindi sarà possibile riascoltarla prossimamente anche dal nostro sito. Cedo la parola alla mia amica di una vita, Jael Behr, che presenterà ancora i nostri ospiti, e ringrazio tutti veramente del vostro lavoro e della vostra prestazione di questa sera, chiamiamola così, ma insomma di questo aiuto che date alla diffusione della cultura. Grazie. Grazie a te, Valeria. Allora, buonasera a tutte e tutti, benvenuti. Io faccio parte della Consulta Culturale di Appiano e domani sera presenteremo ad Appiano lo scrittore Giampiero Montanti, anche nella nostra biblioteca, e la cosa che ci piaceva fare era una cosa anche a Bolzano, e devo ringraziare Valeria Trevisan che gentilmente ci ha offerto di poterlo fare qui a Bolzano. Allora, adesso vi presento, ma mi sembra che li abbia già presentati, ma li ripresentiamo. Allora, va bene, Gian Piero Montanti, che è lo scrittore, la voice over Liviana Berardini, la pianista Elisabetta Fusillo e il tenore Roberto Costantino Catania. Quella che avete appena sentito è... sentirete... Prego. La lama affonda nella carne, la lacera. Prima qualche goccia, poi un copioso rivolo di sangue scivola sulla mia coscia nuda. I suoi occhi scrutano il mio corpo fino a fissarsi nei miei. Attimi di follia e terrore accendono le nostre pupille. Non posso gridare, non posso muovermi. Ho il suo odore addosso. Il dolore è così forte che mi costringe a svegliarmi. Boccheggio, sono madida di sudore. L'incubo è tornato a rammentarmi che non sempre il tempo lenisce i ricordi. Mi alzo dal letto e mi affretto verso la finestra. Ho bisogno di respirare. Il firmamento pieno di stelle stride con le mie emozioni. L'odore della notte e la fragranza inebriante del gelsomino invadono la stanza, mentre una civetta nei campi interrompe i miei pensieri. Devo togliermi questi indumenti bagnati. Da anni la sera, quando mi rifugio nell'abbraccio delle coperte, stringo gli occhi con forza e prego che ci possa essere un risveglio diverso. Vorrei essere di nuovo ragazza, con tanti pensieri felici e un futuro tutto da vivere. Soffia ancora forte lo scirocco fuori e dentro di me. Il vento che in tutti questi anni mi ha sferzato il viso e sporcato di sabbia il cuore, portando fino ai miei piedi da luoghi lontanissimi il deserto. Ancora oggi le mie mani raccolgono loro malgrado questa sabbia rossa, gonfia di sangue e di dolore, che ha vestito tutte le ingiustizie che ho subito. Non c'è acqua che possa lavarmela via di dosso. Continuo a graffiarmi nel tentativo di scollarla dalla mia pelle, senza riuscirci. La mia indignazione è ancora qui, come allora, quando la mia prima calunnia mi si è posata addosso in attesa, in apparenza lieve, come una piuma portata dal vento. Bugia dopo bugia, ognuna nera come il mantello di un corvo. Sono stata ricoperta da una montagna di fango e falsità che alla fine mi ha sommerso. Agli occhi del mondo sono la guasta famiglia che prima ha sedotto Giorgio e poi lo ha convinto a fuggire con lei, abbandonando moglie e figlio. Alla mia età, forse, dovrei rassegnarmi. A chi potrebbe importare se riuscissi a ristabilire la verità e far capire quello che mi è davvero successo? Dopo quasi 60 anni, poche persone tra quelle coinvolte sono rimaste in vita per ascoltare il mio racconto. Queste persone, però, sono quello che resta delle nostre famiglie. Loro devono sapere. Sono stanca di nascondermi. Potrei spezzare la catena di odio che le calunnie hanno forgiato. Odio tramandato alle generazioni successive. Odio che ha impedito non soltanto a me, ma anche a tutti loro di vivere una vita diversa. Devo provarci. Sono l'unica che può farlo. Sarà straziante rivivere quello che ho cercato di dimenticare, ma è necessario. Non voglio più essere odiata. Ho bisogno di strappare via dalla carne quella lama che ancora oggi affonda, lacera e consuma il mio corpo esausto. Dio, dammi il coraggio per attraversare di nuovo tutto questo. Un brivido mi scuote e istintivamente mi avvolgo le spalle con le braccia. L'autunno è alle porte e la mia camicia da notte è troppo leggera. Qualche nuvola va a coprire grappoli di stelle. La civetta continua il suo monotono canto. Respiro il profumo del gelsomino e torno a riposare. Avrò bisogno di tutte le mie forze domani a Palermo. Avete sentito una romanza siciliana? Come siciliano l'autore Giampiero Montanti, con il suo romanzo Sono io che vi chiamo, che si svolge appunto in Sicilia. È una storia di uno scandalo avvenuto negli anni 50 che ha cambiato la vita di molte persone. Una storia romanzata, ma in fondo vera, con tanti colpi di scena, quasi un thriller che ti fa stare incollato a leggere. La storia ha tanti personaggi, ognuno con la sua importanza, nessuno in secondo piano. Nel tuo romanzo si toccano temi importanti avvenuti negli anni 50, ma tuttora attuali, come l'emancipazione femminile, il patriarcato, la violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, il sospetto, la denigrazione, il rimpianto, la vergogna. E poi l'amicizia, l'affetto, l'amore, raccontati con grande dolcezza, ma anche velati dal pudore. Parlaci di Eleonora, una ragazza che aveva voglia di studiare, di emanciparsi, che ha un carattere coraggioso e anche una gran voglia di indipendenza, merito dei suoi genitori, soprattutto di suo padre. E per quegli anni essere come lei non era una buona cosa, anzi. Nora in una parte del libro dice, e questo pezzo mi sembra anche importante perché qui non solo stiamo ascoltando ma festeggiamo anche l'8 marzo. Ho sempre pensato che le donne siano più interessanti degli uomini. Siamo delle grandi coglione, facciamo sempre gli stessi errori e non impariamo dall'esperienza. Ma proprio a noi, che abbiamo meno chance degli uomini, capitano le cose più incredibili. Noi analizziamo gesti, stati d'animo, pensieri. A volte ci accaniamo una con l'altra, eppure sarebbe facile far valere le nostre idee e le nostre ragioni ed essere artefici delle nostre vite. A te la parola, come nasce questa storia? Allora. Pronto, ecco. Intanto buonasera e benvenuti a tutti quanti. Sono particolarmente emozionato perché questa è la prima volta che sono io che vi chiamo, esce dall'isola in cui è stato scritto, la Sicilia. Dopo quasi 2 mesi di presentazione in giro per la Sicilia, è considerato l'affetto che ha investito questo romanzo, era il caso di farlo conoscere anche al di fuori della terra d'origine. E grazie a Jael, Liviana, a questo team meraviglioso, a Roberto e Elisabetta che hanno rivestito e rivestiranno di tanta emozione questa serata, oggi sono qui a parlarvi di questa storia che ha sicuramente un sapore antico perché parte negli anni 50, ma in realtà mantiene una modernità perché i piani temporali in cui si sviluppa il racconto sono 2, l'attualità, il 2013 come attualità e appunto gli anni 50. Jael mi ha chiesto come è nata questa storia. Questa storia è nata da un dolore antico, qualcosa che risiede nei miei ricordi, nella mia famiglia, perché nel lontano 1947 una persona di cui io in parte porto il nome, che era il fratello di mio nonno, decide di abbandonare improvvisamente la sua famiglia. Lui è sposato, ha 3 figli, uno piccolissima, si innamora di una donna, anche lei sposata, con figli, e insieme, pensate, nel lontano 1947, decidono di lasciare tutto, non esisteva il divorzio ovviamente, di lasciare le loro famiglie di origine e non voltarsi mai più indietro. Questa è una storia che ha scatenato un dolore immenso in chi è rimasto, soprattutto in chi ha dovuto affrontare un'esistenza difficile, specialmente per la moglie di questo zio che ha dovuto crescere 3 figli nell'assenza di un marito che l'ha abbandonata e che non lavorava peraltro. E io ho voluto, mi sono sempre chiesto in realtà se ci potesse essere un'altra versione di questi fatti, un punto di vista diverso, visto che noi avevamo ereditato, noi familiari, l'odio di generazione in generazione per quest'uomo che aveva abbandonato la famiglia senza averlo mai conosciuto, semplicemente per il racconto che ce n'era stato fatto. Ma alla tirata delle somme non c'era un'altra verità possibile. Era un amore che ne aveva annullato tanti altri, l'amore verso la moglie, verso i figli. Però io ho voluto fare un lavoro diverso. Ho voluto scrivere una storia che partisse dallo stesso dolore, ma che potesse avere un'evoluzione completamente diversa, anche nel rispetto delle persone che sono ancora vive e che hanno ereditato questo dolore. E quindi mi sono soffermato proprio a pensare che spesso ci sono invece delle situazioni in cui noi odiamo o alimentiamo l'odio senza in realtà avere la certezza che il racconto originario sia un racconto reale, ossia come ha detto Liviana, perché quella che ha letto così bene Liviana sono le parole iniziali del libro che ho voluto che lei leggesse, proprio per farvi entrare nella storia. Nora, a distanza di 60 anni da questo scandalo in cui lei fugge con quest'uomo, lei è una donna giovane, fugge con un uomo sposato, con un bambino piccolo, e non si voltano più indietro, a distanza di 60 anni invece decide di portare ai nipoti dell'uomo con cui è fuggita, ai figli di questo bambino abbandonato e ad una loro amica, una verità diversa, sperando che questa verità possa essere l'unica possibile e che chi l'ascolta possa realmente credere nelle sue parole. Allora, la storia dolcissima di affetto tra Nora e Giorgio è iniziata come un'amicizia che poi si trasformerà in un amore travolgente, importante. Sì, inizia che Nora ha appena 15 anni, si incontrano per caso e vediamo come. Non so da dove cominciare, ragazzi miei. Sono anni che preparo questo discorso nella mia testa e ne abbiamo parlato un numero infinito di volte, io e Giorgio. Abbiamo vissuto più di 50 anni insieme, senza mai pentirci della nostra scelta, che se a molti sembrò crudele ed egoista, era invece inevitabile e necessaria. Il nostro amore è stato fonte di gioie, ma anche causa di dolori per noi e per gli altri. Oggi ho 76 anni e sin da piccola hanno iniziato a chiamarmi Nora e vi prego di farlo anche voi. Sono cresciuta in una famiglia benestante. Mio padre, genovese, era un ingegnere delle ferrovie che per il suo lavoro cambiava città ogni 3 o 4 anni. Io e mia madre lo seguivamo sempre. Eravamo in Sicilia da pochi anni. Dirigeva i lavori sulla ferrovia che congiunge Palermo a Trapani. Io avevo finito le medie a Palermo e iniziato il ginnasio a Trapani. La mia vita è cambiata per la prima volta il 6 aprile 1952. Era la Domenica delle Palme. Avevo appena compiuto 15 anni. Avevo il vestito della festa di taffetà verde, comprato da mamma in un suo viaggio a Palermo. Un'ampia scollatura chiusa da bottoni che partivano dal décolleté e arrivavano alla vita. Il busto strettissimo metteva in risalto tutte le mie forme. Devo ammetterlo, generose già allora. La gonna lunga appena sotto il ginocchio era ampia e rigida e io giocavo a fare la ruota ballando davanti allo specchio. I miei capelli erano raccolti e tirati su. Mia madre mi aveva anche truccato gli occhi e messo un po' di rossetto. Sembravo una donna e non una ragazzina troppo cresciuta. Le scarpe con il tacco alto erano sue e non riuscivo a camminarci bene. È stato proprio mentre entravo in chiesa che, inciampando, sono finita tra le braccia di Giorgio Mariani. Mi ha sostenuto e aiutato a risollevarmi. Il più banale degli incontri è stato l'inizio di tutto. I suoi occhi azzurri sono stati la mia condanna a un amore eterno. Durante la benedizione delle palme e per tutta la messa non ha mai smesso di guardare verso di me. Io distoglievo lo sguardo non appena incrociavo il suo ed ero agitatissima. Non era solo. Aveva accanto la moglie Nuccia con il figlio Attilio in braccio, i suoceri e i due cognati più grandi. Al termine della funzione io e mia madre siamo uscite dal portone principale della basilica, quello che si apre sui giardini pubblici. Papà ci aspettava su una panchina seduto a leggere un quotidiano, indifferente al vociare dei bambini che giocavano a palla o andavano sui tricicli. Ci siamo sedute accanto a lui, io con il cuore in tumulto, mamma sotto braccio a me, che non si era accorta di nulla. Giorgio è apparso poco dopo, insieme a suo figlio Attilio, che non aveva ancora 4 anni. Si rincorrevano l'un l'altro a turno. È stato inevitabile che il bimbo venisse a nascondersi dietro la nostra panchina. Inevitabile come il fatto che, prima di ritrovare suo figlio, Giorgio avesse trovato il mio sguardo. La sua eleganza nei modi, nel portamento, nell'abito, aveva reso quella giornata più luminosa di quanto non fosse già. Mi ero innamorata, colpita al cuore da un cupido dispettoso. Il mio primo amore aveva 33 anni ed era un uomo sposato che adorava suo figlio. Tutti lo dicono. Mi consenti, Joel, di dire una cosa importante. Questa canzone che avete appena ascoltato, il cui titolo è Cuti Lurissi, parla proprio dell'autodeterminazione dell'amore. Ed è una canzone che è stata portata al successo in Sicilia da una cantante assolutamente fuori dall'ordinario, straordinaria a dire poco. Una donna che con la sua chitarra ha cambiato con forza il senso della vita delle donne, non solo in Sicilia, Rosa Balistreri. Grazie a Roberto per averla cantata davvero benissimo. Nora e Giorgio si incontrano dopo 2 anni alla stazione. Sì, il loro amore, l'amore di questa ragazzina che ha appena 15 anni si è invaghita di quest'uomo, diventa qualcosa di più maturo a distanza di qualche anno. Lei l'aveva quasi dimenticato, non, del resto era una studentessa, non poteva assolutamente pensare che un uomo sposato potesse nutrire dei sentimenti simili ai suoi, però il fato ci mette sempre qualcosa nella vita delle persone. Ascoltiamolo, questo incontro. Ragazzi miei, che gioia quell'incontro fortuito sui binari. Il cuore mi era salito fino in gola, poi lentamente era ridisceso al suo posto. Giorgio era magnifico, di una bellezza ancora più matura. Cominciava a ingrigirsi sulle tempie. Nello sguardo manteneva un velo di malinconia e acquisiva sempre più fascino. Io indossavo un delizioso vestitino bianco con tanti piccoli fiori rosa ricamati sopra, un abito senza maniche perché faceva già abbastanza caldo. Che fossi innamorata era innegabile. Il solo rivederlo aveva riacceso in me tutte quelle sensazioni già provate, che credevo seppellite. In un solo secondo, un turbinio di emozioni mi aveva completamente soggiogata. Come mi ero potuta illudere di averlo dimenticato? Tutto tornava alla mente con precisione sconcertante. Ogni secondo che passava alimentavo il mio amore di una consapevolezza nuova. Ero pronta ad amare davvero. Ma Giorgio restava sempre un uomo irraggiungibile ai miei occhi, destinato a rimanere un sogno ad occhi aperti. Non potevo e non volevo non ricordare che fosse sposato e che avesse un figlio. Questo era un ostacolo insormontabile. Cosa potevo attendermi da lui? Potevo forse rivelargli il mio amore? Come potevo anche solo sperare che i suoi modi così cortesi celassero un sentimento non molto dissimile dal mio? Ero solo una stupida ragazza, innamorata di un uomo adulto, e come tale mi comportavo. Mi tenevo a distanza, ma sognante. Signorina Eleonora, che piacere incontrarla dopo tanto tempo. Signor Mariani, come sta? Sono passati almeno 2 anni dall'ultima volta che l'ho vista. Vero? Mi permetta di dirle che è sempre più bella. Dove andava così di corsa? Sta partendo? Volevo far visita a mio padre. Mi scusi, lei non lo conosce? È un ingegnere ferroviario e ha l'ufficio proprio qui dietro. Posso accompagnarla? Una ragazza come lei non dovrebbe camminare da sola. No, stia tranquillo, sono praticamente arrivata. Saranno se no ancora 10 passi. Mi dica piuttosto, ma come sta suo figlio e la sua famiglia? Stanno tutti bene. Attilio è un vero metto. E lei? Lei come sta? Come vanno i suoi studi? Sto bene. E per i miei studi? Sono una vera secchiona. Quindi procedono più che bene. L'anno prossimo finirò il liceo. Cosa vorrebbe fare dopo il diploma? Voglio studiare ancora. Vorrei frequentare l'università. Ma brava! Ha una preferenza sulla facoltà? Preferenza? Ma la mia strada è segnata da tempo. Studierò medicina, voglio diventare un buon medico. Un dottore? Complimenti, signorina Santini. Il suo è un traguardo ambizioso, ma sono convinto che riuscirà a raggiungerlo. Vedo in lei una donna determinata. Donna è una parola un po' grossa. Comunque sì, è vero, sono un tipo ostinato. Vorrei diventare pediatra per curare i bambini, che amo moltissimo. In loro c'è una gioia di vivere autentica, senza mediazioni e pregiudizi. È una ragazza dall'animo nobile. Sono incantato. La smetta di adularmi perché finirò per crederci. Lei cosa fa nella vita? Posso chiederglielo o sono inopportuna? Ma certo che può. Sono laureato in giurisprudenza, ma non ho mai praticato l'avvocatura. Lavoro per conto di una società di navigazione. Ho curato per anni l'amministrazione e nel frattempo, con periodici imbarchi, ho sfruttato il mio vecchio diploma di capitano di lungo corso. Così adesso anche io posso comandare una nave. Deve essere una bellissima sensazione. Quale, signorina Eleonora? Ma quella di sentire il mare. In che senso? Sentire. Sentirlo, e sentirlo in tutti i modi possibili. Averlo come compagno e alleato durante la navigazione. Vedere come la prua taglia l'acqua e come la nave risponde ai comandi di virata. Guardare la scia di un'elica. Ammirare l'orizzonte dello stesso colore del cielo. Bagnarsi il viso con gli spruzzi. Sentire il sapore del sale sulla pelle, riconoscendo che è mare, che si è dissolto. Lei è una continua fonte di meraviglie. Come posso dirle che tutto ciò che ha appena detto è davvero quello che io realmente sento del mare? Nei miei pensieri non c'è la poesia delle sue parole, ma il senso è lo stesso. Affronto la vita come se fosse una continua risacca. Mi lascio trascinare dall'acqua che si ritira e sbattere sulla riva dall'onda successiva, ma è il mare che mi conduce. E non può accadermi nulla di male se confido nella sua forza. Comandare una nave significa riuscire ad andare d'accordo con questa forza, assecondare il suo umore, lasciandosi portare più dal vento e dalle correnti che dal motore, senza mai dimenticare che del mare bisogna avere profondo rispetto. È sempre meglio restare a guardare le tempeste dalla terraferma. Mi piacerebbe averla a bordo un giorno, Eleonora. Dio mio, è tardissimo. Ho perso la cognizione del tempo. Rischio di non trovare più mio padre. Sono costernato. Sono io che le ho fatto perdere tempo. Dottor Mariani? Da lei preferirei essere chiamato Giorgio. Signor Giorgio, è stato un gran piacere conversare con lei. Le auguro una buona giornata e la prego di dare un bacio al suo ometto per me. Sono scappata via da quel groviglio di interessi e sensazioni che si era formato intorno a noi. Sono entrata correndo nell'ufficio di mio padre, accaldata e tachicardica, balbettavo come una bimba. Ma nei momenti appena trascorsi con Giorgio, ero stata a mio agio. La notte è scura e no, Nel romanzo ci sono molti momenti di rapporti familiari, non sempre sereni, anzi, ad esempio, il rapporto di Saverio con suo padre. Allora, questa è una storia che in fondo ci riguarda, nel senso che, proprio etimologico del termine, ci guarda tutti dall'alto, guarda le nostre famiglie, guarda le nostre storie, guarda quello che accade all'interno delle case. E sono tante le famiglie che sono analizzate nel romanzo, perché questo romanzo non ha un io narrante. C'è Nora che ci racconta la sua storia, ma nello stesso tempo ci sono Anna e Saverio, i fratelli, figli di questo bambino Attilio abbandonato, e poi c'è Lucia, che è una loro amica d'infanzia che scopriranno presto essere qualcosa di molto di più, e lo scopriranno attraverso il racconto di Nora. E sono tante famiglie che sono nate e cresciute nella difficoltà di affetti, perché un bambino come Attilio, che è stato abbandonato a 5-6 anni da un padre, che il giorno prima c'era e il giorno dopo non c'era più, e non l'ha più mai visto, cresce con una mancanza che a sua volta non riesce a riversare, non riesce a recuperare nei rapporti con i propri figli, Anna e Saverio appunto, che a loro volta, soprattutto Saverio, che a sua volta è padre, non riesce ad essere padre di sua figlia e finisce per abbandonarla, una bambina, dal nome di Veronica. È una catena di anaffettività che fa male, ma che è molto più presente di quanto non possiamo immaginare all'interno di tante storie, di tante famiglie. Ed è per questo che ho scelto di leggervi un piccolo, piccolo passo che descrive il desiderio di affetto di questo uomo, ormai uomo, ma che ricorda e riporta indietro ai momenti in cui aveva bisogno di questo padre, e questo padre in realtà per lui sembrava non esserci. Sì, mio padre, Attilio Mariani. Quando è stata l'ultima volta che ho pronunciato il tuo nome? A voce alta nella mia cameretta lo ripetevo cercando la giusta intonazione, poi lo scrivevo più volte, fino a riempirci una pagina. Non ero mai contento della grafia. Doveva suonare perfetto. Era il nome di mio padre, l'uomo più importante della mia vita. Mi ero presto reso conto che tu, papà, avevi contribuito a fare la differenza tra quella che avrebbe potuto essere un'infanzia felice e quella che di fatto era stata. Giorno dopo giorno avevi deluso le mie aspettative, privando prima la tua vita e poi anche la mia della naturale gioia dei colori. Non immaginavo nemmeno che un padre potesse essere diverso da come eri tu. Ti giustificavo. Pensavo che fossi stanco, che il lavoro ti sfinisse e ti togliesse ogni desiderio, anche quello più semplice, di abbracciarmi. Ho elemosinato baci e carezze, agognando il tocco delle tue dita tra i miei capelli. Non sei mai stato generoso. Mi hai lasciato credere che fosse giusto così. Io ho continuato ad amarti, a nutrirmi di un amore ruvido che ferisce quando tocca, ma da cui non puoi fare a meno di farti toccare. E io ero sempre lì a cercare di farmi toccare e ferirmi ogni giorno di più. Nel libro mi hanno molto colpita le descrizioni dei luoghi. Leggendo sembrava proprio di essere lì con Nora, luoghi molto contestualizzati e studiati ad hoc. Parliamo di monastero, dove Nora viene accolta. Sì. Allora, quando ho scritto questa storia, sono grandicello, ma negli anni 50 non c'ero. E quindi era il mio desiderio fare in modo che questa storia, visto che era così intensa e così viscerale, non avesse nessuna possibilità di essere criticata per il contesto che c'era, perché noi siamo circondati dalle fotografie bellissime. Questo libro è un libro fotografico, è un libro che ci fa vedere quello che noi stiamo attraversando mentre i protagonisti ce lo descrivono. E quindi c'è una profonda e importante analisi, studio di quelli che sono i luoghi, la toponomastica, il linguaggio degli anni 50. Io ho letto tantissime riviste degli anni 50, anche perché ogni parte del libro è suggellata da una lettera scritta da Giorgio negli anni 50, che è come se asseverasse il racconto di Nora. E c'è un luogo che per me era un sogno visitare, e non potevo visitarlo, perché è un monastero di clausura di Palermo, che è il monastero di Santa Caterina d'Alessandria, dove scelgo di far rifugiare Nora in un momento preciso del racconto. È uno dei monasteri più belli che abbiamo in Italia ed è accanto c'è una chiesa che a sua volta è una chiesa stupenda. Noi parliamo di donne oggi. Ebbene, sappiate che questa chiesa è bella perché le suore che l'hanno abitata in segreto, in silenzio, hanno voluto che fosse così, perché ogni scultura, ogni bellezza, ogni marmo che c'è all'interno di questa chiesa è voluta dalle suore che l'abitavano. Ed essere priora in quel monastero, nei tempi antichi, significava avere lo stesso potere del sindaco, nella grande città come Palermo. E io entravo in quella chiesa, mi sedevo tra i banchi di quella chiesa e respiravo questa atmosfera. Attorno c'erano i matronelli, ambulacri, all'interno si vedevano delle maioliche azzurre, dei tetti azzurri. E immaginavo queste donne che attraversavano questi luoghi e non si facevano vedere. Ma io avevo bisogno di sapere come si viveva lì dentro. E allora è iniziata una ricerca spasmodica, ma non trovavo pubblicazioni, non ce n'erano. Era uno dei luoghi più inaccessibili di Palermo. Il priore che seguiva le monache mi ha sconsigliato assolutamente di comunicarle, di andargli incontro. E poi invece ho avuto un incontro fortunato. Un uomo e una donna, un architetto e sua moglie, strepitosi. Lui aveva fatto la tesi di laurea sulla cupola di questa chiesa e pensate, le monache avevano preteso che per accedere alla cupola si potesse accedere solo dal monastero, quindi nessuno poteva accedervi, anche se la chiesa era aperta al pubblico. E quindi lui con una lasciapassare, con un uomo che con una campanellina, con il lasciapassare del vescovo, una campanellina che allontanava le monache man mano che loro entravano, lui è riuscito a fotografare, a fare una mappa di quel monastero e io ne sono venuto in possesso e ho potuto scrivere questa parte. La cosa incredibile è che nel 2014 le monache sono state trasferite, ne erano rimaste solo 11, tutte anziane, e sono state trasferite in un'altra struttura. E adesso quel luogo è diventato il luogo più visitato di Palermo, perché da quella cupola, dove peraltro accade qualcosa di molto forte alla nostra Eleonora, e c'è una vista su Palermo la più bella in assoluto. Siamo nella piazza della Fontana delle Vergogne, se qualcuno di voi è mai stato a Palermo, accanto ai Quattro Canti, in pieno centro. E io avevo il terrore, dopo aver scritto questa parte, che una volta che il monastero fosse aperto e io lo potevo finalmente visitare, tutto quello che avevo scritto non aveva più senso. E sono entrato lì col terrore e ne sono uscito felice perché non c'è stata una singola parola di quello che io avevo scritto che ho dovuto modificare, perché il lavoro di questo architetto era stato preziosissimo e preciso e perfetto. E all'interno di questo monastero oggi c'è anche una pasticceria che riproduce i dolci che facevano le monache, i segreti del chiostro. E ripeto, se uno di voi dovesse capitare in vacanza a Palermo, non potete mancare di visitare e di assaggiare queste prelibatezze. E Nora, ripeto, si rifugia lì per un motivo di cui parleremo dopo. Ma adesso la nostra Liviana ce lo fa vivere questo ingresso nel monastero. Mi avviai, ma non tornai subito indietro. Non ne avevo la forza, non mi sentivo pronta a rientrare nel chiuso della mia solitudine. Un mondo antico, per me nuovo, mi si apriva davanti. Sola, nel silenzio notturno che seguiva il mattutino, desideravo intraprendere una fuga dal presente verso il passato, un passato ancora vivo. Uscì nel chiostro, in punta di piedi, realizzando che dopo tanto tempo ero all'aperto. Attraversai il giardino con le grandi aiuole ricche di alberi da frutta, mandarini, limoni, pesche e nespole. C'erano anche gli alberi di arance amare, che le monache raccoglievano per ricavarci le scorze candite usate per abbellire i loro famosi cannoli di ricotta. Queste prelibatezze, insieme al trionfo di gola e alla pasta frolla con la conserva, erano il vanto gastronomico della piccola comunità monastica. Da ogni parte della città venivano a comprarli alla ruota del monastero. La fontana risplendeva della luce lunare, circondata alla base da vasi di plumerie. Sentì un rumore, forse solo un leggero refolo di vento tra i rami, e mi decisi a rientrare. In un angolo una porta aperta lasciava intravedere una scala. La percorsi velocemente, distinto. Guardavo i gradini per non inciampare alla scarsa luce della lanterna e soltanto quando mi resi conto che l'aria intorno a me era cambiata, alzai la testa e mi accorsi di essere dentro la chiesa. Ero sopra il portone d'ingresso, in quello che doveva essere il coro, una grande sala sopraelevata, completamente rivestita da grate dorate. Ero vicinissima agli affreschi del tetto e avevo la sensazione di essere sospesa nel vuoto, quasi a dominare quel tripudio di marmi e decorazioni barocche, illuminati dallo splendore dei raggi lunari più che dal tenue chiarore dei ceri. La luce perlacea trafiggeva le poche finestre e convergeva verso un enorme candeliere di legno dorato. che pendeva dalla sommità della cupola al centro della croce latina. Era una visione suggestiva, d'intensità commovente. I mandarini, i limoni, i dolci, io non li avevo nelle foto. E allora ero disperato a quel tempo e tutti mi dicevano no, lascia stare, non puoi disturbare le monache. Ci ho messo 2 anni, ma poi alla fine ho preso il telefono, ho chiamato, ricordandomi che la mia ex moglie aveva soggiornato in un'ala del monastero che era adibita a studentato per le ragazze universitarie. Chiamo e mi risponde questa voce giovanilissima, un misto tra siciliano e l'italiano, era la più giovane delle monache, giovane per modo di dire, aveva 80 anni, Suor Gesua, una voce argentina, e comincia, si ricordava assolutamente del fatto che 2 anni prima il priore le avesse detto che c'era una persona che voleva scrivere un romanzo sul monastero. E lei, come se fossi la sua finestra sul mondo, il primo appuntamento col moroso, mi ha raccontato con una gioia, una semplicità di tutto quello che le è accaduto in quegli anni, della sua scelta di diventare monaca. Lei era entrata lì dentro perché sua sorella era monaca. Da bambina l'andava lì a vedere, stava dei periodi lì dentro e poi ha scelto di rimanerci. Una scelta normale, semplice. Però poi mi raccontava di quelle volte, uniche volte, per terremoti o per dei problemi improvvisi in cui erano dovuti scappare dal monastero, quei viaggi erano rimasti così fortemente incisi nella loro memoria perché erano le prime volte che vedevano il mondo al di fuori della chiesa. Io avevo tra l'altro letto tante di quelle lettere recuperate dall'archivio diocesano in cui queste povere donne cercavano di uscire, di andare per qualche periodo a casa fingendo malattie immaginarie con degli terribili dinieghi che avevano avuto. Ma la cosa più straordinaria è stata che durante la nostra conversazione a un certo punto lei mi ha fermato e mi ha detto: signor Montanti, un attimo, il portatile si sente male qui dentro, le posso dare il numero di cellulare? Ebbene, io ho il numero di cellulare di una monaca di clausura. Parliamo delle persone negative che si trovano nel romanzo, più di una. Sì, ci sono delle anime nere del romanzo. Sebbene Nora e Giorgio decidono di scappare ed sembra una fuga d'amore, in realtà non è una fuga d'amore. Accadono delle cose, accadono tante cose in questa storia. Noi ve ne stiamo accennando soltanto una minima parte, perché come ha detto prima Joel, che l'ha letto e l'ha amato per fortuna, perché se no non saremmo qui, non poteva essere qui a raccontarlo, è un thriller dei sentimenti, avvengono tante cose in concatenazione, una dopo l'altra, è scritto come se fosse quasi una serie televisiva, cioè a un certo punto si arriva al climax della scena e poi cambia completamente la prospettiva, per poi ritornare magari il capitolo tra un paio di capitoli successivamente. E ci sono, non ho voluto imitare il grande Camilleri, però ci sono chiaramente delle anime nere, e queste anime nere utilizzano un po' più degli altri la lingua del mio paese, e devo dire è fortunato il loro modo quasi violento con cui esprimono la sopraffazione, esprimono il desiderio di sopraffare, di valersi, di prevalere su Nora, sulle donne in generale, sull'amore, su quello che ne può derivare. E questo mi porta a dire che se Nora è all'interno del monastero è perché qualcosa di brutto le è successo. Non è sicuramente un momento facile quello che la porta una ragazza di 18 anni, quasi 19, a rinchiudersi per un breve periodo di tempo all'interno di questo monastero. E c'è Liviana che ce lo fa capire. Dentro di me cresceva una consapevolezza nuova. Cominciavo a sentirmi responsabile. Analizzavo gli eventi che adesso rivedevo con maggiore lucidità e vi riconoscevo sempre un comportamento, un gesto che avrei potuto evitare. Mi convinsi di essere stata leggera e frivola. Mentre i giorni passavano, stavo sempre peggio. Ero continuamente sotto processo e il giudice che albergava in me mi condannava senza appello. Credevo di impazzire. Quelle giornate che sarebbero dovute servire a farmi recuperare le forze e la fiducia in me stessa mi stavano distruggendo. Quando mettevo l'unguento sul volto, evitavo accuratamente di incrociare i miei occhi nello specchio, facendo rientrare nel vetro solo la grande chimosi. Avevo paura del mio sguardo, paura di quello che mi avrebbe potuto rivelare. Mi prendevo cura del mio corpo e delle ferite esteriori, ma non facevo nulla per la mia anima. Era un nuovo inizio. Da qualche parte dovevo pur cominciare e, nonostante il troppo da affrontare, urgeva in me la necessità di vivere. Adesso tutta questa vicenda si sposta dalla Sicilia alla Liguria, precisamente a Genova, e poi dalla Liguria si sposta ancora. Sì, Giorgio e Nora a questo punto devono lasciare la Sicilia e decidono di tornare in Liguria, a Genova, dove Nora è nata, perché Nora è una ragazza ligure. L'abbiamo sentito nel prologo iniziale, che si è trovata a vivere in Sicilia per il lavoro del padre. E lì tentano di costruire una storia, una vita, però non è facile. Siamo nel 58, un momento molto delicato. Sono tanto e frequenti le migrazioni verso il nuovo mondo. E Nora e Giorgio alla fine trovano tutte le porte chiuse, no? Giorgio è stato anche licenziato e non riescono a pensare ad altro che a una soluzione completamente diversa. E la sorella della nonna di Nora, che vive a Buenos Aires, invita Nora e Giorgio a insegnare in una scuola di italiani, per italiani, ad insegnare a Buenos Aires. E allora, proprio nel giugno del 1958, prendono questa decisione di spostarsi lì. Ed è proprio il momento in cui l'Italia sta cominciando a sognare, e tutti insieme, tutta l'Italia, ma poi anche tutto il mondo, cantano una canzone in particolare, e Roberto e Elisabetta ce la fanno ascoltare. Nora ha una certa età e torna in patria per raccontare la sua verità, una verità che nessuno conosce davvero. Attraverso l'avvocato nel suo studio incontra parte della famiglia rimasta. Nora racconta la sua verità a chi, fino a quel momento, aveva avuto un'opinione diversa su di lei, ma Nora ha anche una speranza. Sì, Nora ha la sua di verità, ma siamo sicuri che la verità di Nora è l'unica? E questa è la domanda che si fanno chi ascolta, ovviamente. E quindi Nora deve cercare assolutamente di convincere, non ha un'altra opportunità, ha 76 anni, una vita è passata. E ci prova in tutti i modi. dopo aver conosciuto l'emigrazione, dopo aver vissuto la pienezza del proprio amore con Giorgio in Argentina, essere stata finalmente serena, decide di tornare in patria e decide quindi di fare in modo che questa storia si compia. E così è partito questo lungo racconto che arriva alla fine con la speranza di ricondurre insieme questa famiglia, di fare in modo che questa famiglia possa tornare ad essere una cosa sola, di non provare più odio, di liberare da questa terribile delusione che loro hanno avuto. Ed è per questo motivo che stiamo avviando ormai alla conclusione, che io vorrei leggervi la quarta di copertina di questo libro, che raduna un po' tutto il pensiero. È una breve frase, un brevissimo pensiero. Tutti noi in questa stanza siamo come foglie che appartengono allo stesso albero. Siamo vissuti su rami diversi. La vita ci ha tenuto distanti, ma il vento a volte, battendo forte tra i rami, ha fatto sì che qualcuno arrivasse ad avvicinarsi, a volte a toccarsi. Non a tutti è stato consentito. Alcune foglie sono state strappate via con forza dagli eventi, ma oggi siamo qui, uno accanto all'altro. E io, per la prima volta nella mia vita, posso tenere queste foglie tra le dita, ammirarle, accarezzarle con gli occhi e sperare che possano, da questo momento in poi, vivere come una vera famiglia. C'è un'ultima canzone che voglio farvi ascoltare e che ho chiesto a Roberto ed Elisabetta di preparare, perché è una canzone suonata all'interno del romanzo, così come Volare è citata all'interno del romanzo, le cui parole accompagnano un momento molto importante del romanzo. È una canzone stupenda degli anni 40 che tutti voi, le vostre mamme, avrete sicuramente ascoltato una volta tanto cantare. E con questa abbiamo terminato questa serata. Se ci sono domande, volete chiedere qualcosa all'autore? Io una domanda la posso fare? A lei però. Che ti è rimasto di questo romanzo? Mi è rimasto il batticuore, la forza, la bellezza di questo romanzo che non riuscivo a smettere di leggere perché era una cosa continua, quindi è rimasto tanto, tanto, veramente. Una storia avvincente, molto, molto bella, molto importante anche. E poi un occhio proprio al discorso delle donne, una cosa. Infatti quando ho letto un po' la trama, eccetera, ho pensato subito, portiamolo a Bolzano e cerchiamo di farlo, no? Ho parlato in consulta ad Appiano e abbiamo detto proviamo a portarlo a Bolzano. Ogni tanto portiamo degli autori da altre città. Appiano è un paese piccolo, però cerchiamo di fare cultura veramente, di darci da fare, insomma, di impegnarci. Poi abbiamo fatto un progetto con Liviana, con Elisabetta, con Roberto, un progetto che si chiama Noi da Voi, cioè noi portiamo delle persone, degli artisti di tutti i tipi, sono non musicisti, sono scrittori, sono un po', insomma, tutti i tipi di arte, cerchiamo di portarla in giro, insomma, di parlare con i vari paesi e di avere uno scambio. Noi possiamo, abbiamo delle bellissime sale ad Appiano e possiamo portare degli artisti da noi e noi andare da loro. E quindi c'è uno scambio culturale che si riesce a fare anche nel nostro territorio. Io ti ringrazio perché siamo molto felici di averti. Domani sarai con noi ad Appiano e siamo molto felici. E quindi grazie di questo libro che è bellissimo. Spero che tu ne scriva un altro. Sì. Io ringrazio voi, ringrazio tanto queste bellissime donne che ho accanto e anche quelle che ci sono qui in sala, perché questo libro è un regalo a tutte le donne, perché il focus di questo libro è proprio sulla condizione della donna dagli anni 50 ad oggi e alla forza di questa donna così determinata, così libera, così indipendente, che non conosce la parola emancipazione, perché per lei essere emancipati non è, è un'evidenza, è una normalità. È una donna che è cresciuta in una famiglia laica, è stata educata da un padre progressista e lei non vede nessun motivo per cui dovrebbe essere inferiore ad un uomo o non dovrebbe avere le stesse identiche possibilità di un uomo. E la modernità di questa parola, di questa sua affermazione ancora viva oggi, e purtroppo, ahimè, tante delle cose che accadono a Nora accadono anche oggi. E il mio vuole essere un regalo, un occhio a guardarsi dentro a tutte le donne e a rendersi conto di quanta forza effettivamente esiste dentro di loro e quanto è possibile vivere autodeterminando la propria vita, senza nemmeno pensare un attimo a quello che gli altri devono dare a una donna per consentire di farlo. Grazie a Roberto Costantino Catania, bravissimo interprete, grazie a Elisabetta Fusillo, preziosissima pianista, Liviana che è con me in questo progetto da tanti mesi, stupenda voce, e naturalmente Jael che ha amato il romanzo e ha creduto in questa storia. Grazie a tutti voi per grazie essere stati qui. Grazie a te. Se volete il libro è laggiù, potete acquistarlo e l'autore vi farà una firma.